Perché un matrimonio abbia qualche possibilità di riuscita si devono considerare le tre componenti della natura umana: corpo, anima, spirito. Se il matrimonio è fatto solo perché due corpi sono da scoprire, l'unione coniugale è fragile dato che non ci vuole molto per conoscere un corpo. Se il matrimonio è basato sull'emotività, la vita coniugale è in serio pericolo perché la nostra emotività è instabile. Il matrimonio con anche una componente spirituale ha buone possibilità di durare perché lo spirito non è limitato. Allora mi chiederete, come mai i matrimoni nei quali sono presenti tutte e tre le componenti anzidette non funzionano, mentre a volte i matrimoni a sole due componenti funzionano? Perché un matrimonio può reggere anche con solo due componenti. Questo accade a volte, quando gli sposi hanno gli stessi interessi egoistici, che si incontrano dando così l'impressione, o l'illusione di amore, di armonia coniugale. Se ambedue gli sposi danno la precedenza, gli interessi comuni vanno d'accordo perché in questo modo si incontrano. Sembra assurdo, ma anche l'odio può unire. Nei Vangeli leggiamo che Erode e Pilato divennero amici quando dovettero giudicare Gesù, mentre in precedenza si detestavano. Esistono però anche persone che hanno buon senso e sanno mantenere l'armonia nella vita matrimoniale. Perciò, se due sposi sono uniti nello spirito e non nella componente umana, allora il matrimonio può fallire. L'essere cristiani non è una garanzia assoluta per un matrimonio riuscito. Occorrono altre componenti quali la cultura, l'istruzione e la buona educazione. Poiché il matrimonio è sempre più in crisi e per tante ragioni, vorrei considerarne una che è forse la più comune, il sogno. Dobbiamo prendere atto che ci sono sposi che sono rimasti delusi del loro coniuge perché si erano illusi sul suo conto. Ma l'errore fondamentale di molti giovani è di sposarsi in tre, lui, lei e il loro sogno. Bisogna accettare la realtà. Per quanto il fidanzamento sia intimo e lungo, non rivelerà mai giustamente com'è il partner. Una cosa che bisogna ripetere fino alla nausea è che noi sposiamo delle persone e non il nostro ideale. Il matrimonio basato sulla realtà comporta un divorzio dal proprio sogno. Se abbiamo sposato il nostro sogno, non dobbiamo incolpare il nostro coniuge di essersi rivelato diverso dalle nostre aspettative. Sognare non è sbagliato, l'errore è scambiare il sogno per la realtà, e quando lo facciamo il matrimonio si rivela una catastrofe. Se due sposi non possono costruirsi un castello, possono almeno costruirsi una capanna, ma non si adatteranno mai alla capanna se continueranno a sognare il castello. L'ironia della vita è proprio questa. Il nostro cuore è quello che ci guida verso la persona che scegliamo. Proviamo per essa dei profondi sentimenti che ci elevano in un'altra dimensione, ma lo stesso cuore è quello che poi ci tradisce e ci inganna. Noi pensiamo di amare il nostro coniuge perché proviamo forti sentimenti nei suoi confronti, ma quando questi vengono a mancare, allora andiamo in crisi. Non sono pochi i partner che mi hanno confidato che non provare più niente per il coniuge. E hanno quindi concluso: mi sono accorto di non amare più il mio coniuge. Essi pertanto basavano il loro amore sui sentimenti. Eppure, nel momento in cui questi vengono meno, inizia il vero amore. Gesù non disse che chi lo amava avrebbe provato forti sentimenti o che avrebbe fatto la sua volontà con trasporto, ma che chi lo amava avrebbe fatto la sua volontà e basta. Se amare Gesù significa questo, allora amare il coniuge non significa nulla di meno. Se noi non vogliamo rinunciare al nostro sogno nel campo matrimoniale, lo stesso succede anche nel campo spirituale. Molte persone vanno in crisi spiritualmente perché sognano o sognano i fratelli che vorrebbero. Poi, quando si accorgono che i fratelli non sono come immaginavano, rimangono delusi. Ma la colpa di chi è così? Se noi siamo in crisi perché il coniuge non è colui che avevamo idealizzato, la colpa è del nostro romanticismo. Il nostro coniuge ha qualità e difetti. Se vogliamo un matrimonio felice, dobbiamo sposare sia i pregi sia i difetti. Noi sposiamo un essere vivente e non un'immagine scolpita. Questo aspetto ci porta ad un'altra riflessione. Noi tutti siamo handicappati, chi più chi meno. Per handicappato intendo riferirmi a ciò che significa la parola, cioè limitato. Noi sposiamo un essere con i suoi limiti, e dovendo convivere bisogna accettarli. Se una ragazza è stata molestata sessualmente dal padre o ha avuto esperienze traumatiche al riguardo, molto probabilmente avrà problemi nel rapporto sessuale e il marito dovrà essere comprensivo. Se un ragazzo ha avuto un padre manesco, ubriacone, molto probabilmente non saprà essere comprensivo, delicato, gentile con la moglie. E questa dovrà tenerne conto. Chi non accetta la realtà sarà costretto a vivere una vita matrimoniale povera e dolorosa. Cosa fare allora oltre che divorziare con i propri sogni per avere un matrimonio saldo e felice? Una coppia di consulenti matrimoniali americani con 30 anni di attività alle spalle fecero pubblicare su una cinquantina di quotidiani in 25 stati americani la seguente inserzione. Se la vostra è una famiglia unita, contattateci. Conosciamo i motivi che stanno alla base di una famiglia allo sbando. Vorremmo invece sapere di più su quelli che danno coesione a una famiglia felice. Ricevettero una valanga di lettere e a ogni famiglia che aveva risposto spedirono un questionario per sapere quali erano i punti di forza della famiglia. Dall'indagine risultò che vi erano alcuni elementi fondamentali che contribuivano alla solidità familiare. Ne ricordo tre. 1. Occorre dedicare del tempo per stare insieme. Di fronte alla domanda, secondo te che cosa ci vuole per avere una famiglia felice? La risposta. Non era una bella casa, un'automobile o denaro, ma la possibilità di stare insieme. L'innamorato, per sua natura, desidera stare con l'amata, trascorrere del tempo con lei. Se non desideri più la compagnia del tuo partner, significa che qualcosa è venuto a mancare. Un matrimonio si può dire riuscito quando gli sposi stanno bene assieme, quando desiderano stare insieme per conoscersi. 2. Bisogna imparare ad apprezzare. Ricevere l'apprezzamento degli altri è una delle esigenze maggiormente sentite dagli esseri umani. Una coppia di sposi confessò di essere caduta, seguendo l'esempio di alcuni suoi amici, in una trappola pericolosa, assumendo atteggiamenti snobistici. Amavano punzecchiarsi con frecciate di sarcasmo duro e cattivo. Decisero di procedere diversamente e cominciarono a considerare i lati buoni e positivi. Il loro matrimonio migliorò quando si imposero di guardare ciò che avevano e non quello che mancava loro. Dice un proverbio: chi copre una colpa si procura amore, ma chi vi ritorna sopra divide gli amici migliori. Proverbi 17:9. Credo che pochi proverbi siano validi nell'ambito del matrimonio quanto questo. A due sposi felici che festeggiavano il 50° anniversario di matrimonio, alcune persone chiesero quale fosse il segreto del loro successo. La risposta giunse inaspettata: abbiamo ancora delle cose che ci piacciono. 3. È necessario mantenere una buona comunicazione. Le famiglie forti sottolineano il fatto che una buona comunicazione non è necessariamente un fatto spontaneo, necessita di tempo ed esercizio. Una madre confessò: se mio figlio non riesce a parlarmi di automobili e di sport, perché dovrebbe parlare con me di questioni scottanti come la droga o problemi sessuali? Questo significa che due sposi non devono necessariamente parlare solo di cose serie e profonde, ma gli argomenti anche banali servono a cementare l'unione familiare. Poiché l'argomento è molto serio e importante, desidero rimarcare una componente che realizzo per esperienza. Perché un matrimonio possa riuscire, dobbiamo essere riconoscenti prima di tutto verso Dio, poi verso il coniuge. Senza riconoscenza, il proponò, un matrimonio non è riuscito e nemmeno felice. Per natura noi siamo riconoscenti per ciò che riteniamo utile e vantaggioso. Così, siamo riconoscenti a qualcuno che ci fa un complimento, ci dà un incoraggiamento e quando le cose si svolgono secondo i nostri progetti e parametri. Tutto quello che ci è contrario lo vediamo come un nemico per la nostra felicità e il progresso spirituale. Per questo abbiamo difficoltà a essere riconoscenti verso qualcuno che ci riprende quando ci fa notare i nostri peccati o se le cose si svolgono diversamente da quanto avevamo progettato e pensato. ma principalmente consideriamo quale nemico tutto ciò che non combacia con quello che avevamo sognato, quando il coniuge non corrisponde all'ideale immaginato. Così, noi riteniamo che i difetti del coniuge siano un ostacolo alla felicità, al nostro matrimonio e al sogno che ci eravamo fatto di esso. Ma le cose sono esattamente al contrario. Ogni coniuge ha virtù e difetti. Anche mia moglie è una donna che ha varie virtù, e queste mi attirano verso di lei, mentre i suoi difetti sono importanti per cementare il nostro matrimonio e il mio rapporto con Dio. Così, mentre le virtù di mia moglie mi attirano verso di lei, i suoi difetti mi spingono verso Dio. Ad un certo punto del mio matrimonio ho compreso il valore della moglie che Dio mi ha dato. Le sue virtù sono molto importanti, ma i suoi difetti sono indispensabili. E, un po', l'esperienza che facciamo tutti quando leggiamo la Bibbia. In un momento nel quale la vita scorre serenamente, abbiamo una certa comprensione di essa, ma quando la leggiamo dopo aver attraversato periodi burrascosi e pesanti prove, ci sorprendiamo del fatto di comprendere la Scrittura in un modo più profondo, eppure la parola di Dio non è cambiata. Così è della vita. Quando si ha un coniuge secondo i propri sogni e si è tentati a restare sordi ai problemi matrimoniali altrui e non ricettivi sugli aspetti insoliti del matrimonio, ma quando accettiamo di convivere con un coniuge difficile, da quel momento il matrimonio è un arricchimento e una sfida. Prima per noi, poi per il coniuge al quale trasmettiamo tutta la gioia e la felicità di condividere la vita insieme. Il nostro bisogno più impellente come coniugi è di ricevere dalla Scrittura quelle certezze radicate che hanno il potere di agire sulla realtà. Se il nostro matrimonio è in crisi, molto probabilmente è perché non abbiamo divorziato dai nostri sogni e non abbiamo accettato da parte di Dio che i difetti del nostro coniuge siano indispensabili per la nostra crescita e per il nostro bene. Lasciamoci condizionare dalla parola di Dio, siamo riconoscenti a Dio e al nostro coniuge per tutto. Se lo facciamo con un atto di razionalità abbiamo tutto da guadagnare, se lo facciamo con fede saremo graditi a Dio e otterremo dei premi impensabili. Marzo 2005. Contributo. Vincolo Santo GBU, Gary Thomas. Ellero,